Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un Abuso al Giorno, la trasmissione che oramai da oltre un anno vi accompagna nei vostri percorsi mattutini. Speriamo di farvi compagnia radiofonicamente altrettanto la sera alle 20.45 quando siamo in replica. Oggi trattiamo di una cosa abbastanza curiosa. Ce la segnala un radioascoltatore che vive a Roma, si chiama Paolo Spano. Ci ha mandato una gustosa email, corredata anche da una foto che testimonia e documenta ciò che lui denuncia. Diciamo un abuso forse nei confronti della pazienza dei cittadini romani. Il caso è apparentemente, come dire, banale. Sappiamo tutti, o molti di noi sanno, che a Roma sono in corso i lavori per la linea di metropolitana B. È indubbio ed è anche giusto che qualche disservizio, qualche disagio debba esserci per rendere un domani la capitale ricca di un servizio metropolitano in più che possa far tutti muovere meglio. Però accadono delle cose curiose durante questi lavori e io vorrei che a raccontare questa cosa curiosa fosse proprio Paolo Spano, il nostro radioascoltatore. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei che cosa ha scoperto di ritorno dalle sue vacanze? Beh, di ritorno dalle mie vacanze, percorrendo una delle strade che percorro normalmente, Viale Tirreno, che costeggia i lavori del metropolitano, ho trovato una corsia preferenziale lunga 50 metri e mi ci sono trovato sopra. Sulla destra c'è una strada a senso unico, quindi non potevo andare. Sono passato in questi 50 metri di corsia preferenziale. Ecco, 50 metri di corsia preferenziale, mi scusi se la, sì? Se la interrompo, sono già o possono apparire già anomali, perché effettivamente il percorso è molto breve, ma in realtà c'è qualcosa, diciamo così, di più urticante per un disattento automobilista a Roma. Esatto, ce lo racconti lei? Sempre, e non solo allora, perché poi sono passato lì vicino altre volte, l'ho sempre vista, una macchina per prendere i numeri targa e fare le multe. E perché questa quindi, corsia preferenziale sarebbe ovviamente vietata al percorso delle auto normali, delle auto comuni, insomma, potranno, suppongo, passarci soltanto autobus, ambulanze, insomma, vigili del fuoco, polizia, i soliti mezzi, insomma. Sì, la cosa strana è che di corsie preferenziali ce ne sono molte, di macchine, di vigili o della polizia per prendere i numeri delle targhe se ne vedono abbastanza raramente, qualche volta capita, lì c'è perennemente. Ogni volta che passo da quelle parti c'è, e su questi 50 metri per prendere i numeri di targa. Ecco, a lei l'hanno mai preso il numero di targa? Sì, la prima volta ci sono passato l'hanno preso e c'era passata due giorni prima mia moglie senza accorgersi della cosa e la prendono presa anche. Ma lei farà ricorso al giudice di pace per questa multa? No, non credo di fare nulla, è semplicemente un'osservazione che io faccio e che insomma, certo, non mi sembra corretto. Ecco, noi trattiamo di questo caso anche perché l'incipit della lettera del nostro radioascoltatore è: gentile dottor Galullo, vorrei far presente un metodo molto carino per far soldi al comune di Roma. Ecco, l'incipit è quello che accomuna moltissimi radioascoltatori, moltissimi cittadini italiani che oramai non hanno più neppure fiducia, diciamo, in queste decisioni prese dalle amministrazioni. Basti pensare a quello che è successo con il famoso T-RED, vale a dire quel marchingegno che prende il numero di targa e quindi poi sanziona con delle multe gli automobilisti che passano con il rosso. Il problema è che tra l'arancione e il rosso, come sappiamo, passano appena 3 secondi scarsi e quindi non è possibile proprio far caso a questi semafori, tanto che molti di questi sembrano truccati e sappiamo anche che ci sono in corso delle indagini della magistratura. La denuncia del nostro radioascoltatore è chiara, però a questo punto noi non potevamo non chiamare in causa e lo ringraziamo per la sua disponibilità Cristiano Bonelli, che è il presidente del 4° municipio di Roma Montesacro, dove c'è appunto questa strada che è stata percorsa dal nostro radioascoltatore, nella quale è stato multato. Buongiorno Bonelli. Buongiorno a voi. Allora, sentiamo le ragioni del Comune di Roma che lei rappresenta come presidente del 4° municipio. Intanto devo fare una domanda, non avete citato il nome della strada, io per forza di cose per rispondere devo capire Sì, la strada è stata citata in realtà all'inizio di questo collegamento da Spano, però gliela facciamo ripetere. Grazie. Prego Spano. Sì, sì, Viale Tirreno. Allora, come lei ha detto, lì c'è un cantiere aperto molto importante per i cittadini, per migliaia di cittadini. Io ricordo a tutti che il municipio che io ho l'onore di amministrare ospita circa 280.000 residenti. Allora, nel senso che noi siamo la 14ª città d'Italia, certo, termini di abitanti. Quindi una metro ovviamente, oltre ad essere utilissimo, diceva giustamente lei, è un problema, perché laddove c'è un cantiere così importante si creano dei problemi non soltanto alla viabilità. Nel merito della questione che giustamente e lecitamente il cittadino denuncia, devo fare delle precisazioni. Prego. Innanzitutto non è da quest'estate che c'è una corsia preferenziale. Se fosse da due estati o da tre o da quattro cambierebbe poco, mi pare che la denuncia sia soprattutto sui 50 metri e sul fatto che poi c'è qualcuno che prende le targhe e fa delle multe. La precisazione da fare è, innanzitutto non sono vigili urbani, quindi non stiamo levando nessuna macchina dal territorio, che comunque è vero che sono troppo pochi. Si tratta di operatori della Trambus, non sono vigili urbani. E che non fanno viabilità, quindi non leviamo nulla alla viabilità e a tutti i compiti che hanno i vigili urbani nel territorio. E non c'è nessunissima attinenza con il discorso legato al controllo e alle casse dell'amministrazione, perché quello è un servizio che viene automaticamente laddove ci sono le corsie preferenziali in tutta Roma. È vero ed è verissimo, e questo lo sottolineo, che sono 50 metri, saranno forse 60 o 70, ma non cambia, di corsia preferenziale. Va detta una cosa. Le corsie preferenziali, non solo perché lo dico io, vanno rese operative al massimo, perché il servizio pubblico è il primo servizio nel quale i cittadini si ritrovano ed è soprattutto un ottimo deterrente all'utilizzo delle automobili in città. Quindi laddove sono le corsie preferenziali, laddove si possono realizzare di nuove, io sono il primo a volerle autorizzare. No, ma Bonelli, è vero, vede, che ho una... Bonelli, volevo dirle questo qui. Nessuno mette in dubbio l'utilità delle corsie preferenziali e anche il fatto che debbano essere rispettate. Ce ne fossero e fossero presidiate, saremmo tutti contentissimi. Però io vorrei che lei incentrasse la sua attenzione sul fatto l'utilità di una corsia di 50 metri, il fatto che il cittadino, poniamo io che non vivo più a Roma da 20 anni, mi trovo casualmente da quelle parti, giro senza saperlo e mi trovo 50 metri di corsia preferenziale. Non mi sembra molto corretto. Definisce un po' la situazione e la semplifica. Innanzitutto, quando si percorre una strada e c'è una corsia preferenziale, c'è la segnaletica e lì è ben visibile dove si annuncia che lì c'è corsia preferenziale, quindi divieto di transito per le autovetture private. E in quel caso specifico è molto evidente, quindi passare e non accorgersene. Lei dice è difficile, risulta un po' difficile, tant'è che lì c'è una viabilità che è prettamente o residenziale o esclusivamente dei mezzi pubblici. Quindi passare e non accorgersene è un po' strano. Capita, è capitato anche a me, ci mancherebbe, però insomma non è poi così facile. Lì c'è un problema oggettivo che non è legato soltanto ai 50 metri di corsia preferenziale, ma è legato anche a una serie di ragioni legate anche addirittura al commercio locale. Noi stiamo soffrendo come municipio e stiamo raccogliendo le istanze dei residenti e dei commercianti, perché quell'area di cantiere, come detto in premessa, sta comportando numerosissimi problemi legati anche alla vita di quel pezzo di quartiere. Quindi, come dire, lei ci sta annunciando in qualche modo anche una rivisitazione probabile della mobilità. A tal proposito io, proprio in virtù non soltanto del signore che vi ha mandato una mail, che poi come ha visto è stato molto cortese anche, no? Perché non si tira indietro e pagherà anche la multa, insomma, quindi sì, mi pare molto civile come presa di posizione. Non posso fare ricorso, ripeto, in questo caso sinceramente sarebbe difficile vincerlo. E ripeto, una volta che è segnalato, una volta che è evidenziato che c'è una corsia preferenziale, giusto, però pone un problema, insomma. Ma c'è un problema legato appunto alla viabilità e non soltanto, come detto. E io a tal proposito, a fronte di tantissime richieste dei cittadini del posto e anche di tutti coloro che poi hanno esigenza di transitarlo quel tratto, ho convocato e già parlato una prima volta proprio con coloro che stanno realizzando il cantiere, che è Roma Metropolitane, e stiamo cercando di trovare una soluzione. Ma non per fare in modo che la corsia preferenziale rimanga, e per dar modo anche che le autovetture possano passare in un tratto strategico, perché poi è un confine da un quartiere all'altro, cioè l'uscita di tanti quartieri del mio municipio in altri municipi, in altri quartieri. Bene, Bonelli, io la ringrazio per la sua precisazione. abbiamo sentito le ragioni del municipio di Roma, abbiamo sentito anche la protesta civile, molto civile, da parte di un cittadino romano in questo, diciamo così, destino accomunato sicuramente ad altre migliaia di cittadini in tutta Italia. Purtroppo i problemi di viabilità non sono soltanto delle grandi città, ma ormai anche un po' delle medie e anche delle piccole. Quindi grazie anche al radioascoltatore Spano che ci ha mandato questa bella mail, e io dico grazie in regia a Valeria Bernardi e in studio a Laura Faggin. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.